sopra un amo. Ma quelle lì non sono per, non sono per calamari, mamma mia, quello lì è per pesce da traia. E vabbè, cioè le ho prese, costava un euro, cosa cazzo, un euro il pacco. E vabbè, la riprovo. Ma quello lì è per un altro tipo di pesca, capito? Quello si mette quando fa il traia, dai. Ci sono anche le piume, ci sono con le piume gogliane. Lo so. Mosche. Le mosche dite che quelli nel lago va bene. È lago, ma io nel lago non ci riesco a pescare. No. Cattivo. Hai già provato? Io ho provato, ma ho provato con il mio ex suocero, siamo andati al fiume e non riuscivo a tirarne giù il pesce, tipo carpe, mamma mia, vediamo, facciamo anche schifo, vedella. Ma lui già le prendeva? Lui già le prendeva, pigliava carpe, pigliava anguille, e cosa, dai, quella è tronte. Pesci con tronte, il pesci. Cappa. Ma magari il metodo tu che non conoscevi. Il metodo che non conoscevo. Comunque, tirava certe bestie, cazzo di carpe, cazzo allucinante. A vedere, cazzo, mi volevano, faceva senso, ho capito già. Al cuga? No, vatti, al cuga. Sì, quella è la cosa lì, tra l'Argentiera, quella zona lì, capito, lago di Barrett. Argentiera. Lago di Barrett. Perché si posta con lago di Barrett? Quello è lago artificiale. Cuba artificiale, quello Barrett è naturale forse. Si pesca. E lui pescava, io era la prima volta che lo vedevo pescare lì, dice andiamo in quel lago che ci pesca parecchio, ho detto vabbè, proviamo, una volta io ci sono andato assieme a lui, ma non ci sono più tornato. Con che scappa aveva? Con scappita o no, usava il coso, lui usava il mais, capito? Sì, mais è quello morbido. Ma morbido. Quello è dolce, si deve andare a casa. Anche le ciliegie mi piacciono. Poi quando va a mangiarle, io le ho mangiate, però cacchia la cura è più pulita là. Oh, non lo so già, io non ne ho mai mangiate quella roba. Sono rientrato, mi sentite? Pronto? Ehi, ecco. Aspetta, non c'ho un guatto. Secondo me sì, sono perso già. Sì. Aspetta, zero di guatto. Aspetta. No, perché non è stato venuto a passare? Perché poi ce l'ho provato con Claudio. No, sono tu, via. Aspetta. Stavo dicendo che non solo dicendo, ti sento anche bene. Cosa? Già, scusa, ripeti? Aspetta, non solo dicendo, ti sento anche bene. No, guarda, la radio è una bomba. Cioè, tu conta che io sto usando un MP più 4. Cosa vuol dire? Cioè, la radio va troppo bene. È una bomba. Prova. Che stavo dicendo, ma è chiamato quello Sandro Polozzoso, ma non risponde, sa, ci sì. Non lo so già. Adesso vediamo se riesco a procurare un attimo 50, pochi soldi, non ci 60, faccio la linea completa e buonanotte, faccio così e va troppo bene. Preparata? Cioè, tra un quando, bisogna vedere che condizioni è, cioè io non posso dare una radio che va bene per poi prendere un bidone, capito? C'è una fregatura. Già lo sai, c'è Claudio, te lo controlla lui, te lo tiene un po' di giorni in osservazione. come vai, poi me lo più ci ha sfigato che va bene quando lo prendi, poi subito dopo si guarda, e cosa come sono pure da calcolare, se può andare bene all'inizio poi magari andare così. Ma io anche quello che per giù era buono. Aspettiamo Claudio, cosa dice? Deve dire, beh certo, devo fidare per forza di lui, non posso fidarmi di altri. Quando non male male male, lui lo sa cosa fare, cioè si restituisce, se non è quando una cosa è pure, non deve garantire lui, nel senso non c'è garantire, quindi lui va bene a sta radio, ok? Cioè, ma deve provare, se va bene la prendo, prende qui per la radio così e poi non va bene, cioè tanto male io do questa. Cioè, sono una radio che va bene, funziona molto, molto bene. Ma alla grande, non bene, bene, alla grande. Se non dice mai, do questa e poi prendo un bidone, se mi prendo una fregatura da solo. E dico, sono solo, non è che sia roba a giocare, no? Così là, un 4,40, minimo 4 anni e 500 euro. So. Ciao, rosaccio. Mamma mia, il casino. Johnny, cosa? Ma lo ascolto. Vabbè. Comunque, dai, arrivo subito. Non so chi sia arrivato qua. Giuseppe, riprendi. Sono qua, sono qua. È così. E stamattina sono andato a casa di Alessio perché dovevo portare il televisore che gli ha riparato a Nico e gli era sistemato, capito? Appagato. Delle valvole bruciate, capito? A un valvolare, yeah. Quindi c'è antico. Non è antico, no. È un coso, un MIFA, hai capito, di marca. Ma di quelli a valvole, che cazzo a valvole sono anni che non mi voglio di MIFA. C'è una che è, usata? MIFA. MIFA. Valvole da un bel che non mi voglio di MIFA, non è che può essere nuovo. Ok, c'è un transistor che mi ha cambiato, è una valvola. Dimmi. Ci dà, c'è, Drumenici. No, stavo cercando se avevo lenta fine, hai capito già. Ma che cosa lenta fine? Sono 35 uso. Lo sei già? 35. Però prendo quello 35, vabbè. Vabbè, quella che avevo io, nei monedelli, le ho tolte, mi sto legando io i fusi, i rami, hai capito? Cazzo. Come non si è già usato? Scappa. Se la tiro lì e fai giù. Che casino. Aspetta un attimo, sto aprendo. No, ecco. E tu c'è qualcosa in onda, ma quella sulla rosa qua. E questo qua. Penso che sia così, boh. Andiamo un po' sotto, ok. Salva desktop, ok. Ma si è comprato il computer nuovo portatile? Sì, ce l'ho già a cade scorso. Ecco, andava. Ma l'altro che si è fatto? Una volta l'abbiamo ancora. Quello che è nata è? Asus. Ecco, e non fa, non funziona? No, credo che sia successo. C'è la differenza con lo spinotto dove si inserisce l'alimentazione, là. La femmina di settore l'abbiamo fatta cambiare perché si è fuso il computer, si è detto un computer bruciato. Ma c'è praticamente la scheda madre bruciata? Prova adesso perché è sostituita, penso di no. Ma funziona adesso? Sì. Funziona! Funziona, penso, perlomeno che funzioni, perché sembra che è successo che la puta si è sentita, sì, però si stava scaricando anche la batteria, io ho continuato a usarlo e poi si è spento, dal momento che si è spento non l'ho più riacceso perché è scarica e non ricarica più, capito? Gappa, via. Vabbè, comunque, adesso sto qua il mio, attrae, chiamalo qua, così. Cosa stavo dicendo? Il mio c'ha gli ingressi jack rotti. Devo curare a mio fratello, gli ho detto, ma se tu non le cavi il piede, il PC me lo rovina ancora di più, come andiamo d'accordo? Io ho detto, tiro 50 euro se me lo metti a posto. E lui ci vuole provare. Se poi mi fa va male, è un casino vero o nero nero. No, dalla gente spesa dell'altro vedo. No, la tua mamma ti ha detto che non si può fare. No, ce lo può fare solo dopo li costruiscono, là sì. Perché sono prestampati questi spinotti, capito? Già, poi c'è andato una l'aria calda. Presumo che siano fatte all'aria calda. Lui mi ha detto, mio fratello gli ha dato un computer e c'era la scheda madre, no? Perché quello che mi ha regalato, tipo che mi ha regalato, dice che c'era la scheda madre bruciata, cioè accende e si spegne il computer. Allora dice, gli ha disabato questi spinotti, cioè questi messi jack, là, diciamo, femmina. E lui vuole provare a disabare i miei e mettere quelli là. Però sono lì, indeciso. Ma che vuole invece quella cosa com'era, non funziona. Se ce la fa dopo. Tu mi dai il tuo, gli ho detto. E saranno 50 euro. Solo che se vanno negozio il computer ti chiamano di più. Ma lì ci vuole proprio, ci vuole la strumentazione giusta, tutti noi. Tipo Massimiliano, lui è Massimiliano come attrezzato, una cosa del genere, c'è la tua l'aria calda, tutto, non è che lo dobbiamo usare un cipitturno, perché dopo gli aggiustano tutti veramente, lì Massimiliano magari si mette ce la fa, ma sono sicuro che non si mette, perché non dire anche lui lascia perdere, ma se ci mette ci riesce, poi dice lascia perdere che è meglio, non si sa mai che poi si fa rovinare di più. Dai, rialzate 10 minuti, dipende Giuseppe. Riga, io sono qua. Ma dove sei stato? E io mi sto attrezzando un po' questi rami, capito? Certo, Massimiliano magari deve essere a casa, che se lo sa cosa fare, lo accende, lo provo. Mi sentite bene, buonasera a tutti. Scappa. Ok, ciao a tutti. Radio normale come sempre. Sì, la radio va bene. Va bene. Ok, dai. Proseguite che chiudo questo accesso. E a cosa corrisponde? A che radio corrisponde questa qua? Questo è un 140 di un radioamatore, un carabinieri di Santa Teresa di Gallura che era completamente assente, diciamo totalmente assente. Abbiamo fatto letterature del frequenzimetro, allineato con Luca in banda laterale mentre stava parlando e poi l'ho portato a 150 watt in banda laterale e un'ottantina di watt in AM, ma intanto lui in AM non se ne fa niente. Adesso è perché lo sto provando io e quindi giusto per vedere un po' come va, capite? Va bene, dai, proseguite, rimango qua in ascolto che lo chiudo, semmai ci sentiamo dopo. Ciao. Sì, aiuterà, mi riposo un po' magari. Ciao.